Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Laura Valessi in redazione, Filippo Aureggi in regia. A 18 giorni dal primo fischio d'inizio e a 25 da un derby di Milano mai così fuori stagione, c'è il tempo per fermarsi a ragionare sul calcio che sarà. Gioco del mercato permettendo, ovviamente, anche con chi ci sta ascoltando, 80024 0024 è il nostro numero verde. Se ci ragioniamo sopra scopriamo, ma insomma già lo sapevamo, che sarà un calcio sempre più dei soliti noti sul fronte interno così come in Europa, perché come scrive Mario Sconcerti nel suo commento oggi sul Corriere della Sera, la Lega dei Ricchi, piaccia o no, è già una realtà di fatto. Mario Sconcerti, buon pomeriggio, grazie davvero. Buon pomeriggio a voi. La Lega dei Ricchi è una realtà di fatto per due motivi, quali sono? Hanno lottato molto, si è lottato a lungo per avere un campionato europeo tra le prime 15-20 squadre e ormai ci sono riusciti. La Lega dei Ricchi è una realtà di fatto perché ci sono due discriminanti. Una è sono i diritti TV che vanno sempre di più alle squadre più forti. E la seconda è perché ormai tutto questo può cambiare solo per una variabile, che è quella di trovare uno sceicco, di un Abramovic, ma il resto è un calcio che rafforza i forti, ormai non è né bello né brutto, è una realtà di fatto. È semplicemente così. Vincono sempre gli stessi, se lei calcola che in 120 anni di campionato inglese, fino al 93 quando è cominciata la Premier League, avevano vinto, scusate, io qui sono un cantiere, un vero e proprio cantiere. No, ma va benissimo. Avevano vinto 20 squadre, da quando c'è la Premier League, cioè da 16 anni a questa parte, il Manchester ha vinto 11 volte. In Italia è stata abbastanza la stessa cosa, non si esce dalle prime tre squadre, in Spagna addirittura, però in Spagna lo sapevamo. E tutto questo è stato rafforzato dai ricchissimi premi della Champions. Insomma, è un campionato dove ormai dominano 10 squadre. Certo. E queste 10 squadre si dividono tutto. Io trovo che ci sia comunque una differenza strutturale tra il nostro calcio e quello di Spagna e Inghilterra. Lì il sistema consente di fondarti su situazioni debitorie mostruose. Però c'è una gestione aziendale e manageriale a noi sconosciuta. Io trovo invece che il nostro calcio sia stato sommerso dai soldi delle TV, ma sia gestito in fondo come 50 anni fa, come logica e come personaggi. Sì, questo è vero secondo me, però solo in parte, nel senso che ormai quasi tutto il calcio italiano è gestito in modo manageriale o attraverso una struttura industriale come la Juventus o come in buona parte anche la Fiorentina, oppure con una specie di artigianato molto astuto, molto attento, molto intelligente, come per esempio la Roma, la Lazio, il Cagliari, l'Udinese. Cioè, è difficile oggi che le televisioni coprono gli ingaggi, è difficile trovare una società in perdita. Tutto questo però non vale per le due società di Milano, che da sole in pratica fanno l'intero debito del calcio italiano. Cioè, la vecchiaia riguarda soprattutto, quasi esclusivamente, Inter e Milan, che sono ancora le uniche in mano a dei principi, certo, a dei mecenati. E poi infatti quando il mecenate dopo 23 anni si stanca di tirar fuori i soldi, succedono dei problemi. L'Inter si regge sul mecenatismo più puro, il Milan fa fatica a operare appunto questo passaggio. Ma io ho l'impressione che ai tifosi la cosa che dia più fastidio sia la mancanza di chiarezza nelle politiche societarie. Non si può raccontare alla gente che questa squadra è competitiva al massimo livello. Io credo invece che i tifosi siano disposti tranquillamente ad accettare qualcosa di nuovo e di diverso, compresa l'austerity, basta essere chiari, ed è questa chiarezza che manca al Milan. Io credo, su questo sono d'accordo, cioè il Milan è stato fatto trovare improvvisamente davanti a una situazione di crisi, su questo non c'è dubbio, però anche qui direi tifosi da tifosi, cioè, a me sembra che noi stiamo coprendo con una coperta di crisi il calcio italiano quando la vera crisi è del Milan. Il calcio italiano è rimasto esattamente quello di un anno fa, di 5 anni fa. Il vero problema in questo momento è del Milan ed è dell'Inter, che continua a produrre un debito mostruoso ogni anno. Ecco, se c'è una vecchiaia, sinceramente, se c'è una vecchiaia di gestione, un vecchio modo di gestire il calcio, a me sembra che sia soprattutto Inter e Milan. Sì, sì. Poi è un modo ricchissimo di essere vecchi, ma si è vecchi. Lei qualche, io cerco di essere un lettore attento, qualche giorno fa scriveva che la Juve è l'unico club gestito in maniera davvero aziendale e manageriale. La Juve dal 94 è autofinanziata, cioè la famiglia Agnelli nel momento in cui ha finito di essere, cioè la Juventus non c'è più un Gianni Agnelli che investe per conto proprio, o non c'è più un Berlusconi, un Moratti. La famiglia Agnelli si riassume in una cassaforte che è la Exxon, ma da cui ogni tanto è uscito una volta 105 milioni di euro 2 anni fa per reinventare una Juventus che stava chiudendo, e sappiamo perché. Ma dal 94 la Juventus è stata la prima società ad autofinanziarsi, cioè a vendere giocatori e a cercare di non produrre debiti. Di non produrre debiti di gestione, cioè a chiudere il bilancio quantomeno in pareggio. E ha fatto tutte e tre le cose che di solito servono per, si dice che siano estremamente virtuose, cioè la valorizzazione del vivaio. E adesso vediamo che il vivaio della Juventus ha prodotto ricchezza proprio, ma non soltanto quei giocatori che ha, quei giocatori che ha potuto vendere questi anni. Certo. Il progetto dello stadio. È l'unica società ad avere già uno stadio in costruzione. E poi il terzo appunto, l'autofinanziamento, il non aver paura di vendere i suoi migliori giocatori, perché vendere deve significare cambiare un giocatore con un altro, non necessariamente peggiorare. Naturalmente, trovo però che la Juventus abbia sentito negli ultimi anni la mancanza di uomini di calcio veri, cioè, per intenderci, uno alla Corvino che prende Felipe Melo a 8, glielo rivende poi a 25, e quindi diversi soldi siano stati spesi, diversi errori siano stati commessi proprio per l'assenza di uomini di calcio. Siamo d'accordo, ma avere una strategia industriale non significa non sbagliare tattica industriale. Certamente la Juventus ha pagato molte delle cose che stanno arrivando oggi di buona alla Juventus, sono state progettate prima, non tanto da Moggi che era un puro uomo di mercato, ma da Giraudo che era l'uomo della società, dallo stadio al vivaio e all'autofinanziamento. È certo che la Juventus di questi 3 anni ha pagato la giovinezza della società, della nuova società, su questo non c'è dubbio, però gli ingredienti, io non dico il risultato della cottura, ma gli ingredienti dentro la minestra sono stati quelli giusti. Le chiedo ancora questo, su che pagina sta la Juventus nel libro del calcio? Su quella dei ricchi, dei grandi, di Manchester United, Inter, Real Madrid, o su quella degli altri? Sul campo, intendo. È una società che si sta... In Europa la Juventus ha sempre avuto dei problemi. Sempre, questo è un dato di fatto. Davanti al Manchester United cede qualcosa, perché il Manchester United è una squadra che può attingere al bacino dell'impero, basta pensare che in Indonesia, cioè che è un paese a cui pochissimi pensano, un paese da 200 milioni di persone, a cui pochissimi pensano, ma il Manchester United ha 50 milioni di tifosi, cioè 50 milioni che rispondono al merchandising, che rispondono agli abbonamenti televisivi, ma basta anche pensare alla diversità però proprio imprenditoriale, perché il prime time del campionato inglese in televisione, cioè la partita più importante va alle 8:30 di sera in Cina, in Indonesia, in Giappone, e va magari all'una in Inghilterra. Cioè, loro proprio costruiscono per vendere, per esportare, però la Juventus non è molto lontana da questo tipo di pianeta. Grazie davvero. Prego, e buone vacanze. Grazie davvero a Mario Sconcerti. Adesso ci fermiamo per il traffico, abbiamo lanciato un po' di temi, poi analizzare più da vicino la situazione sul campo della Juventus. Ieri sera, come sapete, dopo la vittoria sul Real Madrid, ha perso i rigori con l'Aston Villa. Risultati di estate che contano poco, ma sono altri temi che comunque questa trasferta juventina ci ha lasciato. Sentiremo anche cosa ha detto oggi Trezeguet, parole importanti. Adesso traffico, poi torniamo. A tempo di sport. Palla che passa agli ascoltatori. Adesso Paolo da Roma, Davide da Roma sono i primi due ad intervenire oggi. 800 24 00 24, ve lo ricordo, è il numero verde per voi. I messaggi SMS al 349 238 6666. Roma, Paolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno dottor Genta. Senta, io volevo fare una premessa, il discorso è molto interessante. Io sono un tifoso del Milan, ma insomma abbastanza critico. Sì. Qui mi sembra che però si stia dimenticando che poi probabilmente anche il calcio come oggetto sociale, beh, non è un supermercato o una società di pulizie, cioè l'economicità deve fare i conti col fatto che a volte bisogna buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo. Sì. Non avremmo mai visto in Italia Maradona, Falcao e altra gente se Ferlaino avesse guardato solamente al bilancio, quindi è giusto quello che dicevate. Però prima. Paolo, mi perdoni, dai tempi di Falcao e Maradona a oggi ovvio, le cose certo. Sono radicalmente cambiate. Oh. E quello che voglio notare è insomma, ci sarà una ragione se il secondo fattore che citava prima ha ragione Mario Sconcerti, cioè quella variabile impazzita dei nuovi ricchi, degli emuli di Abramovic, degli sceicchi, qui da noi non arriva. Ci sarà un motivo? È chiaro, perché c'è una resistenza mecenatistica, questo è anche vero, o probabilmente perché c'è un sistema ancora vecchio. Tuttavia, per quanto riguarda il Milan, certo che oltre alla mancanza di chiarezza che diceva lei più volte, lei l'ha detto questo, sì, secondo me c'è strutturalmente, io non so se questi se ne rendono conto, una presa in giro siderale. È quello. Cioè tu parli di giovani sotto i 23 anni che o li allevi e li scopri o li paghi. E ma naturale. E se c'è un prezzo sul quale non si discute è quello dei giovani. Ma mio poi caro la Paolo, tua stiamo dicendo la stessa Straccioni... cosa. Stiamo dicendo la stessa cosa, l'impressione. Cioè lei dice presa per i fondelli, io dico mancanza di chiarezza, ma è lo stesso concetto. Io credo che i tifosi del Milan, ma l'ho detto mille volte, sarebbero tranquillamente disposti a sposare una linea societaria chiara che dica adesso non abbiamo più voglia di investire tutti quei soldi nel calcio, cambiamo radicalmente politica. Giovani, va benissimo, mi sembra una cosa corretta quella che ha detto l'altro giorno Berlusconi, andiamo su giovani di 23 anni, basta con i vecchi strapagati, però che ci sia chiarezza nella linea societaria, perché qui stiamo vedendo, allora chi prendiamo? Luis Fabiano, 27 anni, prendiamo Untelar, 26, magari a noleggio dal Real Madrid, prendiamo Pizarro che di anni ne ha 31, mi sembra che sia... Il problema del Milan, di quest'estate balorda del Milan, sia questo: procedere a tentoni senza un obiettivo chiaro e preciso. Perché se dicessero adesso facciamo l'Arsenal, ma chi si ribella? Paolo? Sì? No? Procedere coi soldi contati, procedere che alla fine 3-4 giovani alla fine possono valere anche un piccolo sforamento di bilancio, insomma, tutto qui. Grazie. A lei. Davide Roma, buongiorno. Sì, un buongiorno a voi. Dica. Allora, vi volevo chiedere, io a mio avviso quest'anno per la Lazio sarà un anno abbastanza difficile e complicato rispetto agli altri due, diciamo, che l'hanno preceduta sempre in senso negativo. E non riesco a capire se fondamentalmente cioè le scelte della società di lasciare addirittura a casa i tre giocatori, diciamo, tra virgolette, dissidenti. Io una cosa non capisco, cioè se questi giocatori hanno volontà di andarsene, io non riesco a capire perché la società si ostina sempre a chiedere di più, nel senso, cioè sta confermando quello che ha chiesto ai club interessati, quando effettivamente, parlo francamente, il valore di questi giocatori è già troppo, diciamo, la valutazione che hanno ottenuto per quello che hanno fatto in questi, diciamo, 3-4 anni alla Lazio. Sì. Cioè, non riesco a capire questa società dopo come abbia fatto a rilevare una società con tanti debiti ad avere anche dei buti da parte delle banche, è considerata che questa società non ha una lira per poter gestire un club come la Lazio. Cioè sono cose oscure. Ma sono cose oscure, insomma, sono la Lazio, sappiamo bene come sia stata presa, in quali condizioni è stata presa da Lotito e come è stata poi gestita. Poi Lotito è un osso duro, è uno che non molla nelle trattative, con la storia del vedere soldi, dare cammello, di lunga memoria, vi ricordo la trattativa infinita con il Milan, però Lotito è un osso duro, cioè ha preso quella linea con questi giocatori, ha detto noi li vendiamo a questo prezzo, se loro fanno i capricci vanno in tribuna, è un braccio di ferro innescato da Lotito, e io credo che Lotito non mollerà il colpo. Quanto al campo, insomma, io credo che i risultati gli abbiano dato in fondo ragione a lui e a Delio Rossi, che ha lavorato splendidamente nelle ultime stagioni fino a un attrito irrisolvibile con la tifoseria laziale, che dall'esterno francamente fatica a comprendere. Non lo so se sarà una stagione più difficile delle altre per la Lazio, io non credo, in tutta onestà. Non so se è in linea Davide da Roma. Sì, no, ecco, vorrei aggiungere soltanto un'ultima cosa. Cioè, lei ha detto che le stagioni della Lazio, perlomeno l'ultima, è stata diciamo un successo, ma io sinceramente mi sto basando sui numeri, ci sono state 20 sconfitte. Davide, però è arrivata una Coppa Italia che mi sembra che la Lazio non vinca tutte le stagioni. Ha fatto un campionato, secondo me, in linea con l'organico che aveva, quindi la stagione della Lazio, secondo me, è positiva. Poi non capisco se con quella squadra si doveva chiedere, o con questa squadra si deve chiedere lo scudetto, beh, allora siamo fuori strada, ho l'impressione. Grazie Davide. 800240024, numero verde, ve lo ricordo. Intanto vi faccio sentire che cosa ha detto questa mattina David Trezeguet, che si è praticamente tolto dal mercato. Sentiamolo. Ho parlato insieme alla mia famiglia. Penso che la migliore soluzione sicuramente era di rimanere alla Juve. In più quest'anno avrò la possibilità di festeggiare i miei 10 anni alla Juve. Per un straniero penso che sia una cosa molto, molto importante. Della mia parte volevo dimostrare che sono molto, molto legato anche a questa squadra e a questa società che mi ha dato tanto. E io sempre ringrazierò questa società perché sicuramente mi ha dato la possibilità di diventare un giocatore di un certo livello, e anche a livello personale ho preso tantissimo a Torino. Per quello io guardo avanti, spero di migliorare e spero di nuovo di iniziare a vincere sicuramente i traguardi che ci aspettano. Questo era Trezeguet, che poi vi faccio sentire un'altra dichiarazione di Trezeguet a proposito delle sue voci, ci sono ancora, di un presunto passaggio al Milan, cosa che Trezeguet esclude in maniera categorica, ma poi lo sentirete da soli. Tiziano Pordenone, buongiorno. Buongiorno dottor Genta. Senta una cosa, forse il mio intervento è un po' fuori tema oggi, però mi riferisco al discorso mala gestione da parte dei Berlusconi, Moratti, eccetera, eccetera. Io sono tifoso interista e sto seguendo da vicino da parecchi anni, diciamo, tutte le operazioni di mercato e quant'altro, allenatori e della mia Inter. Volevo spezzare una lancia a favore di Roberto Mancini e dare, diciamo, un piccolo schiaffo a Moratti. Ho visto che oggi Mancini sui giornali, i principali giornali, ha fatto delle dichiarazioni. Sul Corriere dello Sport c'è una lunga intervista a Mancini che racconta cose non inedite in realtà, però insomma torna a parlare e Mancini è lì seduto che prende 500.000 euro al mese dall'Inter, 6 milioni netti l'anno. Farei cambio volentieri, io anch'io. Non so lei. Vorrei spezzare una lancia a suo favore, pensando ai soldi che Moratti sta spendendo incautamente, diciamo, con Mourinho e pagando due allenatori. Se vogliamo, Mancini ha un po' anticipato i problemi che poi sono diventati realtà. Tutti dicevano che era colpa di Mancini l'atteggiamento infantile di Adriano o la poca professionalità, oppure il ribelle Ibrahimovic che già dava segni di sofferenza. Non so, adesso mi sembra rimanga solo il dottor Monti ad essere l'unico problema, altrimenti Mancini può essere riassunto, secondo me, e appena Mourinho avrà dei problemi, adesso non so cosa succederà. Cosa ne pensa lei? No, io credo che Mancini, insomma, mi sembrano abbastanza dettagli. Mancini ha fatto benissimo all'Inter, è chiaro che è un personaggio, come lui stesso ammette, insomma, difficile da gestire o da ricollocare, infatti piuttosto misteriosamente non ha ancora trovato panchina. Insomma, quei problemi erano reali, ma nessuno ne ha fatto carico a Mancini. Nessuno ha fatto carico a Mancini gli atteggiamenti di Adriano. Mi sembra che con Mancini Ibrahimovic non abbia avuto tutti questi gran problemi. Insomma, mi sembrano dettagli. Senz'altro Mancini ha fatto molto bene all'Inter. L'Inter che ha vinto l'ultimo scudetto alla guida di Mourinho era ancora un Inter molto manciniana. Io credo che questa che vedremo sarà la prima vera Inter targata Mourinho, e poi la giudicheremo con calma, insomma. Marco, provincia di Novara, buongiorno. Buongiorno, mi scusi, volevo fare una piccola osservazione su quanto aveva detto prima, parlando della gestione della dirigenza della Juventus, no? Ma volevo solo chiederle, quando la Juventus ha preso Thiago, no? Per fare un esempio, sì, non mi sembra che l'abbia preso da una squadra di bassa categoria, arrivava dal Lione. Quello che voglio chiedere dal Chelsea. Scusi, sì, però appunto dico, era un buon giocatore, adesso che sia stato pagato magari un po' di più va bene. Quello che volevo dire io è che Felipe Melo, sì, è vero che è stato scoperto dal dirigente della Fiorentina, però va anche un po' a fortuna, perché se Felipe Melo avesse fatto una stagione un po' anemica, capito, cioè Thiago è andata anche così. Se avesse fatto una grande stagione, come non dico che aveva fatto al Chelsea, ma comunque era un buon giocatore. Sì, era un buon giocatore, intendiamoci, era un buon giocatore, Lione, poi Chelsea, però non il giocatore che dici, ah, è arrivato Thiago, abbiamo preso la stella, abbiamo preso l'uomo che ci serviva. Era un giocatore che ha fatto bene al Lione, che al Chelsea ha fatto più panchina che campo, dunque è stato pagato molti soldi. È vero, va anche a fortuna, però penso che non sia solo fortuna. La Juventus ha speso 35 milioni per Thiago, Poulsen e Almiron. Ricordavamo l'altro giorno come nei giorni in cui la Juventus ne spendeva 9 per Poulsen in Spagna, sempre in Spagna, la Fiorentina prendeva per 8 Felipe Melo. Sono stati fatti degli errori, indubbiamente sono stati spesi molti soldi dalla dirigenza juventina. Fortuna o non fortuna, io credo che non stia tutto lì, insomma. Luigi, provincia di Cosenza, buongiorno. Salve, buongiorno, grazie per avermi chiamato e complimenti per la trasmissione. Io volevo dire, negli ultimi anni sono stati fatti degli errori, però se andiamo a guardare negli anni, e poi mi volevo ricollegare al fatto, comunque la Juve c'ha 170 milioni di tifosi in giro sparsi per il mondo, sì. E quindi questo è anche un altro dato di fatto, e giustifica anche che negli anni la Juve è stata encomiabile come gestione, come acquisti e come vendite. Poi che giustamente Thiago poi è un caso a parte, perché Thiago ha giocato sempre fuori ruolo. Magari l'acquisto poteva essere stato anche un acquisto positivo, però l'allenatore che c'era prima non lo faceva giocare come lui voleva. Ma una ragione ci sarà anche, Luigi, perché insomma, detto fra noi, non mi sembra questo gran giocatore. È un discreto centrocampista, ma senz'altro è stato pagato tanti soldi, troppi soldi per il suo valore reale. Aveva un buon curriculum, però non era esattamente una stella ed è stato pagato come tale. Quindi se parliamo di errore di mercato per Thiago non andiamo molto lontani dalla verità, ad essere onesti. Ci fermiamo per sentire la borsa, poi torniamo insieme. 800240024, vi ricordo il numero verde. A tempo di sport. Tanto c'è chi scrive anche, ma perché tutti si dimenticano che praticamente Mancini si dimise dopo la partita con Liverpool con ancora lo scudetto da vincere? È lo stesso Mancini oggi in questa intervista sul Corriere dello Sport a tornare sull'argomento e a dire, quando ho detto quelle parole, questo sia un retroscena, anche se non inedito mi pare, quando ho detto quelle parole sapevo già della trattativa tra il mio presidente, tra Massimo Moratti e José Mourinho. A proposito di calcio, per ricchi, anzi per ricchissimi, oggi la stampa inglese scrive di un Chelsea pronto a mettere sul piatto 110 milioni di euro per Pirlo, Ribéry e Agüero. Lo scrive il Daily Mail. Secondo questo quotidiano sono pronti 15 milioni più Pizarro per il Milan in cambio di Andrea Pirlo, che secondo gli inglesi potrebbe arrivare in Inghilterra già a fine settimana, alla fine di questa settimana. Poi altri 50 per Agüero, ne restano 35 per Ribéry, ma mi sembrano pochini perché il Bayern Monaco ne vuole molti di più. Però si scrive appunto di tutti questi soldi pronti. Torniamo a Trezeguet, perché ha parlato anche della trattativa relativa a un suo possibile passaggio al Milan, chiudendo tutto. Sentiamolo. Sicuramente che in questo periodo la stima del Milan per me è stata importante, no? Sia dal mister Leonardo, sia dai suoi giocatori, sia dallo stesso Galliani. Non mi sembrava neanche il caso di cambiare questa società importante come la Juve per fare un tipo di, come si possa dire, un tradimento verso i tifosi, verso anche i miei stessi compagni. Penso che adesso sia tutto chiaro, guardiamo avanti, io della mia parte, voi della vostra, e andiamo avanti. Così David Trezeguet, dunque, che rimarrà alla Juventus, mentre Del Piero dice, ma possiamo anche giocare in quattro là davanti. La vedo un po' duretta, giocare in quattro là davanti, immaginatevi che polmoni servirebbero a centrocampo. Marco, provincia di Pisa, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire, sentivo la trasmissione interessante, però della Juventus si è fatto buoni acquisti nell'era di Raudo, però bisogna, se si ricorda bene, bisogna ricordare anche il fatto che la Juventus aveva il monopolio, la GEA controllava il 90% dei procuratori e degli allenatori, perciò era molto più facile far mercato quando abbiamo il monopolio, se si vuole essere corretti, ricordare bene la storia della Juventus. Poi le carte bollate daranno ragione, non so, però se sa benissimo da lì, dal figliolo di Lippi, no, ma non c'è dubbio, Marco, non c'è dubbio che ci si muoveva in una situazione strana e il mercato era ampiamente condizionato dai fattori che lei ricordava. Antonio Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi dato l'opportunità e complimenti per la trasmissione. Grazie a lei. Allora, io volevo fare un paio di appunti sul Milan. Dunque, io sono d'accordissimo con lei sul fatto della chiarezza, che non c'è. Però faccio due appunti. Uno, se devo, gli ultimi due anni, dico la verità, il Milan quest'anno col fine del 2009, sono passati due anni dall'ultimo trofeo, quello in Giappone. Allora io faccio questo ragionamento, ho fatto da tifoso due anni senza vincere nulla, zero titoli, come dice Mourinho. Ecco. Però io dico, se la politica del Milan è quella di prendere 23-24 anni e fare altri due anni senza vincere nulla, ma fra due anni io, con l'organico che ho in casa, mi trovo a poter competere. Cioè io dico, allora, forse sono un po' emozionato, scusate. Ma no, non è una questione, no, è stato molto chiaro, Antonio, non è una questione di emozione, è stato molto chiaro. Se venisse praticata quella politica che Berlusconi ha a parole inaugurato, io credo che lei e tutti i tifosi del Milan sarebbero contenti. No. Fra due anni io mi trovo, se io adesso devo fare altri due anni con i giovani, con la speranza fra due anni di trovarmi con dei giovani a poter vincere, allora che ben venga. Io gli ultimi due anni li ho fatti da tifoso con i vecchi, sapendo Bravissimo. E guardando che non vincevo niente. E questi 22-23 anni dove arrivano? Da dove arrivano? Allora io penso, bisogna avere pazienza. Allora il Milan ha preso quello che si reputa il più forte centravanti della Serie B, che sarebbe Zigoni, ed è giovane. Poi ha comprato quel tal Beretta, anche lui under 17, che dicono che è fortissimo. Sì. Poi c'è, parlano un gran bene di Strasser, per esempio, della primavera, che anche questo è giovane. Attenzione, perché il Milan sta pagando gli anni in cui sono stati tanti, in cui il settore giovanile è stato in pratica dimenticato. E qualcuno si intende anche di settore giovanile sotto l'aspetto della primavera. Il Milan l'anno scorso non ha iscritto quello che era l'anno della primavera, ma è iscritto l'anno dopo, andando malissimo sotto l'aspetto del campionato primavera, però quest'anno si ritrova con una squadra primavera che ha un anno in più di esperienza e si trova con lo stesso anno. Sì, una squadra primavera, un settore giovanile che comunque è stato di fatto abbandonato. Poi parlano bene di questo Darmian, che vabbè, ormai non è più primavera, e di questo Albertazzi, che è stato acquistato l'anno scorso dal Bologna, battendo la concorrenza di Juventus e Inter, mi sembra, a 2 milioni di euro. Poi è tornato Di Gennaro. Esatto, è tornato Di Gennaro, purtroppo è andato male Zeco, che era anche quello un ottimo giovane. Non sono d'accordo su comprare Luis Fabiano, perché lì veramente 29 anni, non sono d'accordo. No, ma non sono d'accordo neanche io, anche perché Luis Fabiano, tutto sommato, è un giocatore molto ondivago, ha giocato molto bene l'ultima stagione, però se andiamo a vedere il suo curriculum, giocatore che non ha costanza di rendimento ad alto livello, onestamente. Ma insomma, sì, se i giovani sono questi ci vorrà tempo e pazienza, si parte da... Insomma, non sono certo delle stelle, sono forse delle promesse, il cui valore è tutto da verificare, quindi ripeto, i giovani, la politica dei giovani sarebbe la cosa più corretta, però i giovani bravi in casa, maturi, il Milan non ce li ha, proprio per il discorso che si faceva prima. Quest'anno è tornato ad investire sul settore giovanile, ma per anni non lo ha fatto, e dunque non ci sono giocatori pronti. Per comprare giovani di alto livello, ci vogliono tanti soldi, e non mi sembra che in questo momento il Milan abbia questo tipo di disponibilità. Insomma, Mario, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ascolti, io volevo fare questo tipo di intervento. Pensavo che oltre alla situazione economica che ci differenzia dagli altri campionati, dagli altri stati come Inghilterra, Spagna, ci siano delle cose da non sottovalutare, che siano in ordine innanzitutto la questione arbitrale, perché fischiano veramente troppo. Se tu lei vede una partita dell'Inghilterra, vede che non ci sono i nostri 60 falli. Poi loro hanno molta più intensità di gioco, i simulatori non esistono perché non si buttano a terra per quasi niente, e in più è un calcio diverso. È un calcio veramente diverso, quindi ci differenzia poi tra l'altro anche le liti che fanno tra gli allenatori, i dirigenti. Lì lunedì finisce il calcio, in Spagna è quasi uguale. Quindi la questione economica noi dovremmo maturare anche sotto questi punti. Cosa ne pensa lei? Ma io penso che queste cose possano incidere, credo però che sia che incida molto di più la differenza di strutture che c'è, ad esempio in Inghilterra, modello che, come scrive Mario Sconcerti, non è replicabile dalle nostre parti per molti motivi. Credo che più del nostro modo un po' perverso di vivere il calcio incida una differente concezione manageriale del calcio. Per essere molto più chiari, in Italia l'unica squadra ad alto livello ad avere progetto fattivo di uno stadio nuovo di proprietà è appunto la solita Juventus. Per il resto ci si barcamena tra stadi in affitto orrendi, ci si barcamena tra mille problemi di questo tipo. Non esiste ma questo non per colpa di nessuno, una reale cultura del merchandising in Italia. Insomma, il calcio italiano è un fenomeno molto particolare, molto diverso rispetto al calcio in Spagna o in Inghilterra. Questo lo sanno bene anche gli sceicchi, che sono tutt'altro che sprovveduti. Dunque, io credo che sia legato a queste ragioni concrete, il poco interesse, le grandi difficoltà di investitori stranieri nell'arrivare nel calcio italiano. È un pianeta strano e molto difficile da vivere. Credo che questo conti molto di più rispetto al nostro, ripeto, modo un po' strano, un po' bizzarro di vivere il pallone. Ugo Fermo, buongiorno. Ugo da Fermo, buongiorno. Buongiorno. Niente, io mi vorrei riallacciare un po' al discorso iniziale che nella premessa avete fatto. Innanzitutto vi faccio i complimenti per le trasmissioni interessanti che portate avanti. Grazie. Anche se appunto dissento un pochettino dal generico del preliminare che avete fatto all'inizio della trasmissione, cioè dicendo che nel Milan non c'è un programma, l'Inter all'opportunità di avere un mecenate, la Juventus non ha un uomo importante che segua il calcio come Corvino, cioè tutto questo è relativamente vero, perché alcune squadre hanno la necessità di investire in un mercato e altre ne hanno altre, un altro tipo di mercato. Cioè il Milan, quando ha comprato Gagà, non ha sbandierato ai 420 che acquistava Gagà, l'ha preso con discrezionalità, l'ha pagato 8 milioni di euro, nessuno sapeva che ci fosse Gagà. Oggi il Milan, nel suo progetto nuovo, o obbligato o in un certo senso derivato da qualsiasi logica societaria che noi a volte non conosciamo, purtroppo, ma come è giusto che non dobbiamo conoscere, perché un mercato si fa anche attraverso l'interlocuzione tra rapporti di società che il pubblico o i tifosi non sempre devono conoscere. Sì, sì, per carità, però insomma, mi sembra che le parole che arrivano dall'interno del club, da Leonardo a Gattuso alle voci pesanti all'interno del club, rispecchino un po' questa mancanza di strategie precise, no? Mi sembra che il Milan stia procedendo un po' a tentoni, in tutta onestà. Le disponibilità sono quei famosi 14 milioni che tutti conosciamo e che sono quelli derivati dalla cessione di Gourcuff al Bordeaux, e nient'altro, e mi sembra che il Milan stia andando un po' a tentativi in maniera molto diversa rispetto al modo di operare cui il Milan di Berlusconi ci aveva abituato. Lei ha ragione nel dire volevano che caso andati lì, l'hanno preso facendo anche uno splendido affare. È vero, però Milan andava lì e tornava con il giocatore. Quest'anno allora si sta tirando sul prezzo di Luis Fabiano, oppure si pensa ad un Telar in prestito al Real Madrid. Dzeko era l'uomo dei sogni e dei desideri, si è provato a prenderlo, non ci si è riusciti. Questo sono cose, è cronaca, sono trattative reali, sono affari che sono stati trattati e non sono stati chiusi, non è che ci stiamo inventando nulla, lo confermano i fatti. Dunque mi sembra che ci sia una profonda differenza rispetto al modo di operare sul mercato cui il Milan ci aveva abituati. Grazie Ugo, ci fermiamo, traffico, poi torniamo con Vittorio da Reggio Emilia. A tempo di sport. Tra poco passeremo alla pagina conclusiva del nostro programma di oggi, che sarà dedicata al bilancio dei mondiali di nuoto, ma prima Vittorio da Reggio Emilia. Sì, buongiorno. Buongiorno. Un breve intervento riferito al Milan da un tifoso milanista. La politica dei giovani va bene, è apprezzabile, anche a patto di non vincere nulla per 2, 3, 4 anni. Sì. Quello che stupisce, lei l'ha detto anticipandomi, è la mancanza di obiettivi, pensando che i dirigenti del Milan non riescano a concludere un affare col Wolfsburg per Dzeko o con il Porto per il terzino, gli stessi dirigenti che a suo tempo presero Van Basten per un miliardo di vecchie lire o Kakà allora sconosciuto. Un'altra cosa, se si attua la politica dei giovani, non vedo come si possa lasciare scappare un giocatore come Gourcuff e puntare a un Ronaldinho ora che si vuol far giocare nel ruolo di trequartista dietro le punte. Sì, sì. La cosa che mi stupisce è pensare a quella dirigenza che è la stessa, da una parte si facevano, come ha detto lei, affari, si andava, si prendeva il giocatore, si tornava, adesso non si riesce a comprare un giocatore dal Wolfsburg, con tutto il rispetto, oppure dal Porto, un terzino sinistro che è andato a finire al Lione e non al Real Madrid, al Barcellona o al Manchester United. Ma sai, c'è la questione dei denti di mezzo, no? Va bene, secondo me sono stati una scusa i denti, comunque. Ma è chiaro, sono stati una scusa. No, vabbè, Vittorio, lei ha ragione, insomma, verrebbe da dire che gli anni passano per tutti, non solo per i giocatori ma anche per i dirigenti. È chiaro anche che insomma, nel momento in cui giravano i soldi, in cui c'era disponibilità economica, era anche un po' più semplice andare a far mercato. In 2 giorni si chiudeva la trattativa, in 1 giorno e mezzo arrivavano i giocatori. Non c'è dubbio nemmeno sul fatto che la dirigenza del Milan nel corso degli ultimi 3 lustri, degli ultimi 4 lustri abbia fatto dei grandissimi affari, anche dal punto di vista proprio economico, come lei ricordava giustamente. Adesso, ma quello che sorprende, ripeto, quello che stupisce, che io credo faccia dia fastidio ai tifosi, sia proprio questa mancanza di lucidità nella conduzione del mercato. Questo sì. Grazie Vittorio, non ho altro da aggiungere sul intervento, che condivido. Adesso però vorrei passare alla pagina annunciata prima del nuoto, che si apre con il bilancio finale di questi europei del nostro CT Alberto Castagnetti. Lo sentiamo e poi lo commentiamo insieme. Ma secondo me direi è stato un mondiale indimenticabile, sia per i risultati sia per la cornice. Chiaro che qui abbiamo avuto anche qualche controprestazione, ma soprattutto da quei ragazzi che sono stati convocati per fare esperienza, e solamente perché poi eravamo in Italia, mi sembrava giusto dare l'opportunità a un maggior numero possibile di atleti di essere presenti. Federica è di un certo tipo, Alessia è una ragazza molto più, diciamo, molto più esile strutturalmente, quindi fatica molto di più a gareggiare, e per cui una gara paga molto di più di quello che può pagare Federica. In più Federica sono anni che è alla ribalta internazionale, è più abituata alla pressione delle gare, Alessia un po' meno, quindi subisce anche queste, diciamo, pressioni psicologiche che consumano un po' le energie degli atleti. Siamo con 2 atlete che vincono. Anni fa avevamo 2 atleti che vincevano e non vincevano le donne. Però prima di dire debacle, io vorrei far presente che un atleta che si presenta qui e gareggia a un campionato del mondo e arriva una finale, credo che sia un grandissimo risultato. Non si può paragonare la levatura dello sport con le medaglie, soprattutto quando sono molti partecipanti. Non so quanti altri sport possono vantare tanti finalisti come li abbiamo noi. In più faccio notare che l'Italia nella graduatoria per squadra è al sesto posto, quindi credo che il risultato anche di squadra sia ottimo. Il mondiale dei record dal punto di vista tecnico cosa ha detto? C'è stata la polemica sui super costumi, qualcuno anche dibatte anche sui controlli antidoping che dovrebbero essere più efficaci. Dal suo punto di vista qual è il bilancio tecnico della rassegna in generale? Ah, io credo che ci sia stata una svolta generazionale a questi campionati del mondo. Al di là del costume, che sicuramente qualche beneficio ha dato, sono un insieme di fattori che credo che siano da, diciamo, imputarsi esclusivamente a una ricerca tecnica più accurata e dai sistemi di allenamenti più attenti, che ha, diciamo, ingenerato questo nuovo esplosione del nuoto, e soprattutto in atleti molto giovani che prima di questa rassegna conoscevamo appena o non arrivavano nemmeno a una finale olimpica. Il re e la regina di questi mondiali dal suo punto di vista? Ma io direi Biedermann e Federica. Appuntamento a Shanghai 2011, quale sarà il nome nuovo della squadra azzurra? Spero che sia la signorina Scarcella. Questo era Alberto Castagnetti, al microfono del nostro inviato Dario Ricci, che ha tracciato un bilancio in termini, secondo lui, lusinghieri di questi mondiali romani. Io vorrei andare un po' più a fondo sulla questione con Stefano Arcobelli, che vi ha raccontato i mondiali di Roma dalle pagine della Gazzetta dello Sport. Ciao Stefano. Buongiorno. Dico subito che condivido il tuo sei meno alla spedizione azzurra, a questi mondiali azzurri. Ma guarda, è stato oggetto di discussione stamattina, alcuni sono rimasti un po', diciamo, un po' sbalorditi, scandalizzati dall'eccessiva severità, altri condividono, come tu stai dicendo, e noi naturalmente abbiamo deciso, abbiamo discusso chiaramente a lungo anche noi ieri sera sull'opportunità o meno di essere severi o, come dire, un po' generosi. E alla fine abbiamo detto che dobbiamo dare un segnale forte a questa squadra che dietro le punte offre sempre questa sufficienza scarsa, cioè sì, nel senso non c'è continuità al lavoro, cioè durante il grande evento. Ma sai, il problema è che si fa in batteria forte e poi in semifinale si esce, si va forte in semifinale e in finale poi si fanno tutte figure. No, il fatto è che se il termine di paragone è il nulla assoluto che c'era prima di Sydney e oggi non possiamo che essere felici. Però non bisogna farsi abbagliare dall'oro della Pellegrini e della Filippi, perché appunto se tu dici la misura dello stato di salute del nuoto è quella delle staffette, beh, lì andiamo a picco. Certo, infatti non abbiamo a Melbourne con una squadra, diciamo, scassatella, con Bismara in batteria la mattina, poi alla fine abbiamo fatto l'argento nella 4% stile libero, quindi laddove magari fallisce la 4x2 ci arriva un'altra staffetta, qui speravamo molto nella staffetta femminile, quindi c'è qualcosa che non è andato bene, secondo me è nella parte, come dire, finale della preparazione, dove abbinate al discorso della tensione, della responsabilità di gareggiare in casa, tutta questa serie di problematiche ha portato, io sono convinto che attorno allo sforzo organizzativo del comitato organizzatore bisognava presentare una squadra magari meno quantitativamente come questa, ma più qualitativamente migliore. C'è un ricambio generazionale indubbiamente da gestire, soprattutto nel settore maschile. C'è una under 21, per metterla in termini calcistici, che sembra discretamente florida, ma diverse incertezze gestionali. Quali sono queste incertezze? Queste smagliature nella gestione del nuoto e queste incognite nella gestione del movimento nuoto in Italia? No, per me è un discorso di vertice federale, nel senso che Castagni, sappiamo bene, è un grandissimo allenatore, ma è oberato a Verona dal seguire una di livello altissimo come Federica e peraltro con Marin, con Zolino, con Natullo, con Sciocchetti. Quindi è un allenatore, diciamo, a tempo pieno, più che un CT della nazionale. Un CT della nazionale deve andare in giro a verificare, a tenere un intergruppo, a coordinare. Ecco, tutto questo secondo me Alberto non può farlo. Dovrebbe esistere una figura di direttore tecnico alla Schubert, con quella americana, oppure un team manager che magari gli tolga le incombenze organizzativo-logistiche, oppure si occupi, non so, delle qualificazioni, delle convocazioni. perché lui dà la linea e poi sistematicamente a Roma gliela ribaltano, perché ci sono equilibri politici da rispettare, società da accontentare. Ecco, io ho avuto il coraggio di scrivere queste cose stamattina, attirandomi magari gli strali federali, però questo è il mio punto di vista. Ma le cose bisogna anche dirle, bisogna anche spiegarle alla gente, siamo qui per questo, direi, no Stefano? Come vedi il futuro di Federica Pellegrini e Alessia Filippi? Io ieri dicevo che insomma si trovano alle prese con una parte difficile della loro carriera, che è quella della gestione della popolarità, della gestione del successo, della necessità di trovare la fame per ributtarsi in acqua e fare dei sacrifici pazzeschi, e quando si ha la pancia piena è un po' più complicato, soprattutto perché l'attenzione mediatica insomma sarà piuttosto assillante, immagino, nei prossimi mesi. Sì, uno dei motivi per cui secondo me Federica ha scelto di andare in California per staccare. Io ricordo Rosolino nel pieno della popolarità andò in Australia. Al ritorno non è che fosse talmente più forte la differenza, però probabilmente per un atleta c'è un momento in cui cambiare faccia, cambiare atmosfera può servire a ricaricare le batterie. Certamente uno che ha vinto tutto. Qualche problema di collegamento purtroppo con può riproporre la solita Federica per l'europeo di vasca corta, che poi secondo me farà ancora, però sì. Diciamo, perché ormai c'è talmente fame di medaglie che non ci si accontenta mai, però l'esperienza americana può servire, a così come per esempio Cielo vuol fare un'esperienza in Italia dopo aver vinto tutto. Certo, per toglierti dalle pressioni interne, questo può essere il motivo vero e anche un motivo condivisibile. Stefano, per chiudere, in questo mondiale secondo te sono stati protagonisti, cioè sono stati più protagonisti Phelps, Federica Pellegrini oppure questi o Cielo o tutti o questi benedetti costumi? Qual è stato il vero protagonista di questo mondiale? Ma allora, Phelps ha dimostrato che con il 30% dell'allenamento che aveva fatto a Pechino ha vinto 5 ori, e questo ti dà l'idea della dimensione, del livello forse tecnico del mondiale stesso, perché se ha vinto diciamo così, con allenandosi meno, questi ha fatto questi risultati, vuol dire che in generale il livello è un pochettino più basso, che appunto grazie ai costumi ha consentito di fare questo boom di record, però non ingannino questi record, perché sono stati fatti appunto con i super costumi. Grazie Stefano. Allora, va bene. Buon lavoro. Grazie davvero a Stefano Arcobelli. Noi chiudiamo qui questo programma, l'appuntamento naturalmente domani alle 14. Laura Vanossi in redazione, Filippo Auregi in regia, buona giornata a tutti.